l'uso cattivo. Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la la la la. Chi cazzo ti conosce, ma chi cazzo ti conosce? Ti buco le tue gomme, a te chi cazzo ti conosce? Sguinzagliamo Doberman, ti lasciamo senza carne come fossi il Ramadan. Tu rispetta la Boys Clan. Chi cazzo ti conosce? Non la fotti la Boys Clan. Le mie barre canne mozze, non la fotti la Boys Clan. Siamo giù con le magliette, le bandane sopra il viso come fossi Mulligan. Siamo i king della città, tu sei un figlio di puta, tu sei un figlio di puta. La tua troia me lo pompa perché è sempre cornuta. Con le tue cervelle amici faccio un'altra spremuta. La tua vita resta amara come fosse cicuta. Nel 94 nel passato tu non c'eri. Abbiamo bombe come cannonieri, voi pirati bucanieri. Avete in mano solo cozze, siamo noi pionieri. Siete menzogne a gambe corte, siamo noi pionieri. E io difendo il territorio, ti rimando al manicomio. La tua musica la pompa, noi bambini all'oratorio. Dove cazzo fuggi? Abbiamo forza come giugi, ti rimando all'obitorio. Siete cazzi mosci, c'è chi ti incorona se non sa come funziona. Pompi il tuo mai spesso con l'autoclicker da battona. Sei solo il leccaculo di chi conta nella zona. Ho iniziato insieme a Missa, rispetta nella Roma. Schiaffe palle a pezzi come quando gioco al Super Punk. Chi cazzo ti conosce? Non la fotti la Boys Clan. Le mie barre canne mozze, non la fotti la Boys Clan. Siamo giù con le magliette, le bandane sopra il viso come fossi Mulligan. Siamo i king della città, tu sei un figlio di puta, tu sei un figlio di puta. La tua troia me lo pompa perché è sempre cornuta. Con le tue cervelle amici faccio un'altra spremuta. La tua vita resta amara come fossi cicuta. Commenti dietro una tastiera come un deficiente, sei una troia in canottiera. Sei un perdente avanzo di galera, tu e la tua marmaglia. Siete fuochi di paglia, non hai fatto neanche un'ora di lavoro nella vita. Adesso parla, parla, mantenuto sempre al verde. Da dov'è che vieni? Sei stimato dalle merde. Io c'ho l'acido muriatico nel sangue, tu sei in tunica. Io vengo dal muretto, chiedi a Tabata 12 anni di musica. Parli su MySpace ma fai top per la domenica. Dimmi chi cazzo sei, con i soldi di tuo padre te la giri, tu fai gesta. Mio padre invece è morto, scrivo per necessità, non per far festa, adesso ti salta la testa. Tento, tento, tento, tento. Chi cazzo ti conosce? Non la fotti la Boys Clan. Le mie barre canne mozze, non la fotti la Boys Clan. Siamo giù con le magliette, le bandane sopra il viso come fossi Mulligan. Siamo i king della città, tu sei un figlio di puta, tu sei un figlio di puta. La tua troia me lo pompa perché è sempre cornuta. Le tue cervelle amici faccio un'altra spremuta. La tua vita resta amara come fossi cicuta. Chi cazzo ti conosce, ma chi cazzo ti conosce? Ti buco le tue gomme, a te chi cazzo ti conosce? Sguinzagliamo Doberman, ti lasciamo senza carne come fossi il Ramadan. Tu rispetta la Boys Clan. Sempre piccoli porcellini, siamo tre fratellini.